Il libro di Enoch. Libro 2. Tre parabole. Enoch 37. Seconda visione della sapienza, che osservò Enoch, figlio Jared, figlio di Mahalalel, figlio Chanan, figlio di Enos, figlio di Seth, figlio di Adamo. Questo è l'inizio del discorso di sapienza, che levando la voce io voglio comunicare e raccontare agli abitanti della terra ferma. Patriarchi ascoltate e discendenti apprendete, i santi discorsi che vi riferirò di fronte al Signore degli Spiriti. Sarebbe meglio raccontarli solo i patriarchi, ma non vogliamo privare della vera sapienza neanche i discendenti. Fino ad ora tale sapienza non era mai stata comunicata a un uomo dal Signore degli Spiriti, così come io l'ho ricevuta per il mio intelletto e per la benevolenza del Signore degli Spiriti, che ha decretato per me un destino di vita eterna. Mi furono comunicate tre parabole, e io ho levato la mia voce, per raccontarle agli abitanti della terra ferma. Enoch 38. Quando sarà visibile la comunità dei giusti, e i peccatori verranno puniti per le loro colpe e saranno cacciati dalla superficie della terra ferma, e quando apparirà il giusto di fronte ai giusti e agli eletti, le cui opere sono state conservate dal Signore degli Spiriti, e la luce illuminerà i giusti e gli eletti che abitano sulla terra, dove sarà la dimora dei peccatori e il luogo di riposo di coloro che hanno disprezzato il Signore degli Spiriti? Sarebbe stato meglio per loro se non fossero mai nati. Quando verranno rivelati i misteri dei giusti, allora verranno puniti i peccatori, e i malvagi saranno allontanati dai giusti e dagli eletti. Da quel momento coloro che possiedono la terra non saranno più potenti, né superiori e non potranno osservare il volto dei santi, poiché il Signore degli Spiriti fa risplendere la sua luce sul volto dei santi, degli eletti e dei giusti. I re e i potenti saranno annientati in quel tempo e consegnati nelle mani dei giusti e degli eletti. Allora nessuno dei malvagi potrà più implorare misericordia dal Signore degli Spiriti, poiché la loro vita è giunta al termine. Enoch 39. In questi giorni molti degli eletti e dei santi figli scenderanno dall'alto dei cieli, e il loro seme si unirà con quello dei figli degli uomini. In quei giorni Enoch ricevette gli scritti dello zelo e dell'ira, gli scritti del turbamento e dello sgomento. Ad essi non sarà concessa misericordia, disse il Signore degli Spiriti. Allora una nuvola e un turbine di vento mi rapirono dalla terra e mi deposero al confine del cielo. Io qui osservai un'altra visione. Le dimore dei giusti e i luoghi di riposo dei santi. Qui i miei occhi osservarono le loro dimore presso gli angeli e i loro luoghi di riposo presso i santi. Essi pregavano, presentavano intercessioni e pregavano per i figli degli uomini. La giustizia sgorgava da loro come acqua, e la misericordia come rugiada sulla terra. Così è tra loro per tutta l'eternità. In quel luogo i miei occhi osservavano gli eletti dei giusti e dei fedeli. Nei loro giorni dominerà la giustizia e innumerevoli eletti e giusti saranno per sempre di fronte a lui. Io vidi le loro dimore sotto le ali del Signore degli Spiriti. Tutti i giusti e gli eletti brillano di fronte a lui come bagliori di fuoco. La loro bocca è piena di parole di benedizione, Le loro labbra lodano il nome del Signore degli spiriti e la giustizia non cessa mai di stare davanti a Lui. Qui desideravo abitare, la mia anima provava desideri per quella dimora. Qui c'era già prima la mia eredità, perché così era stabilita per me dal Signore degli spiriti. In quei giorni lodavo ed esaltavo il nome del Signore degli spiriti, parole di benedizione e con canti di lode, perché mi ha destinato benedizione e onore nella sua benevolenza. I miei occhi osservarono quel luogo per lungo tempo, e io lo benedissi e l'esaltai dicendo: «Sia benedetto e onorato dal principio fino all'eternità. Di fronte a Lui non c'è termine. Egli sa che cosa sia il mondo, prima ancora che fosse creato, e che cosa diverrà di generazione in generazione. Ti lodano coloro che non dormono mai. Essi stanno di fronte alla tua gloria. Ti lodano, glorificano ed esaltano, dicendo: Santo, santo, santo il Signore degli spiriti. Egli riempie la terra di spiriti. Qui i miei occhi videro come tutti quelli che non dormono mai stavano davanti a Lui, lo lodavano e dicevano: Sia tu lodato e benedetto sia il nome del Signore per tutta l'eternità. E il mio volto si trasformò, finché non potei più vedere. Enoch Slavo 18. Gli uomini mi presero di là e mi innalzarono al quinto cielo. Là vidi una numerosa milizia, gli egregori, il loro aspetto era come un aspetto umano, la loro grandezza maggiore di quella di giganti grandi e i loro visi tristi e le loro bocche silenziose. Non c'era servizio che avesse luogo al quinto cielo. Dissi agli uomini che erano con me: perché questi sono tristissimi e i loro visi sono afflitti e le loro bocche silenziose e non c'è servizio in questo cielo? Gli uomini mi risposero: questi sono gli egregori che da sé si sono separati, due principi e 200 hanno camminato al loro seguito e sono discesi sulla terra e hanno infranto la promessa sul dorso del monte Ermon per insozzarsi con le donne degli uomini e dopo essersi insozzati il Signore li ha condannati. Questi piangono sui loro fratelli e sull'oltraggio fatto loro. Io dissi agli egregori: io ho visto i vostri fratelli e ho conosciuto le loro azioni e so le loro preghiere e ho pregato per loro. Ecco, il Signore li ha condannati a stare sotto la terra finché finiranno i cieli e la terra. Perché aspettate i vostri fratelli e non siete a servire davanti al volto del Signore? Riprendete i servizi di prima. Servite davanti al volto del Signore per timore di irritare il Signore Dio vostro, così da precipitarvi da questo luogo. Ascoltarono il conforto del mio ammonimento e si disposero in quattro ordini nel cielo. Ed ecco, mentre io stavo là, quattro trombe risuonarono insieme agli egregori, si misero a servire come con una sola voce e la loro voce salì al volto del Signore. Enoch Slavo 20. Gli uomini mi alzarono di là e mi sollevarono al settimo cielo. La vidi una grande luce e tutte le milizie di fuoco degli angeli incorporei e gli ofanim che stavano brillanti ed ebbi paura e tremai. Gli uomini mi misero in mezzo a loro ed essi mi dissero: coraggio, Enoch, non temere. Mi mostrarono da lontano il Signore seduto sul suo trono. Tutte le milizie celesti, radunate per gradi, avanzando, Si inchinavano al Signore e di nuovo si allontanavano e andavano al loro posto in gioia e in letizia in una luce senza misura. C'erano i gloriosi che lo servivano. Enoch Slavo 21. Non scostandosi di notte, né allontanandosi di giorno, ma stando davanti al volto del Signore, facendo la sua volontà. Tutte le milizie dei cherubini stavano intorno al suo trono, senza scostarsi e gli angeli, con sei ali coprivano il suo trono, cantando davanti al volto del Signore. Mentre vedevo tutto questo, i due uomini si allontanarono da me e non li vidi più. Mi lasciarono solo all'estremità del cielo ed ebbi paura e caddi sul mio volto. Il Signore mi mandò uno dei suoi gloriosi, Gabriele, ed egli mi disse: Coraggio, Enoch, non temere. Alzati e vieni con me e sta davanti al volto del Signore nei secoli. Gli risposi e gli dissi: Ahimè, Signore. La mia anima si è ritirata da me per il timore. Chiamami gli uomini che mi hanno portato fino a questo luogo, perché in loro avevo confidenza e con loro andrò davanti al volto del Signore. Gabriele mi sollevò come una foglia sollevata dal vento e mi trascinò e mi pose davanti al volto del Signore. Enoch 40. Poi vidi mille volte mille, e diecimila volte diecimila, una folla innumerevole e incalcolabile che stava di fronte al Signore degli Spiriti. Ai quattro lati del Signore degli Spiriti vidi quattro volti, differenti da quelli di coloro che non dormono mai. Appresi i loro nomi. Infatti l'angelo che mi accompagnava me li comunicò e mi mostrò tutte le cose nascoste. Ascoltai le voci di quei quattro angeli del volto, che cantavano lode di fronte al Signore della gloria. La prima voce loda continuamente il Signore degli Spiriti. Ascoltai la seconda voce che lodava i prescelti e ascoltai i prescelti che sono custoditi presso il Signore degli Spiriti. Ascoltai la terza voce che pregava e implorava per gli abitanti della terraferma e presentava intercessioni nel nome del Signore degli Spiriti. Ascoltai la quarta voce che scacciava i Satana e non permetteva loro di entrare presso il Signore degli Spiriti per accusare gli abitanti della terraferma. Allora io interrogai l'angelo della pace che mi accompagnava e mi mostrava tutte le cose nascoste. Chi sono questi quattro volti che ho visto, le cui parole ho ascoltato e trascritto? Egli mi rispose: Il primo è il misericordioso e magnanimo Michele. Il secondo, che è preposto su tutte le malattie e le ferite dei figli dell'uomo, è Raffaele. Il terzo, che presiede tutte le potenze, è Gabriele. E il quarto, che è preposto alle penitenze e alla speranza di coloro che erediteranno la vita eterna, si chiama Fanuel. Questi sono i quattro angeli del Signore degli Spiriti, e in quel giorno io udii le loro quattro voci. Enoch 41. Poi vidi tutti i misteri del cielo, come sarà suddiviso il regno futuro, e come le azioni degli uomini verranno pesate sulla bilancia. La vidi le dimore dei futuri eletti e le dimore dei santi. Là i miei occhi osservarono come tutti i peccatori. Coloro che hanno rinnegato il nome del Signore saranno scacciati e trascinati via. Non possono rimanere là a causa della condanna che viene dal Signore degli Spiriti. Là i miei occhi videro i segreti della folgore e del tuono. I segreti dei venti, come essi si dividano per soffiare sulla terra, e i segreti delle nuvole e della rugiada. La vidi da dove essa venga in quel luogo e come venga seminata dalla polvere della terra. La vidi i contenitori chiusi, dai quali i venti si dividono, il contenitore della grandine e il contenitore della nebbia, e le nuvole della nebbia che sovrastano la terra fin dall'eternità. Vidi il contenitore del sole e della luna, da dove essi escono e dove fanno ritorno. Inoltre vidi il loro magnifico ritorno, come uno abbia la precedenza sull'altro. Vidi il loro splendido percorso, come non alterino il loro percorso, nulla aggiungendovi e nulla togliendovi, e come si mantengano fede l'uno con l'altra e rispettino il giuramento fatto. Dapprima esce il sole e completa la sua strada secondo l'ordine del Signore degli Spiriti, e il suo nome è potente per sempre. Poi incomincia il percorso invisibile e visibile della luna, ed essa compie il suo corso giorno e notte in quel luogo. L'uno sta di fronte all'altra dinanzi al Signore degli Spiriti. Rendono incessantemente grazie e onore, poiché per essi il loro ringraziamento è un riposo. Poiché il sole compie molte rivoluzioni per la benedizione o per la maledizione, e l'orbita della luna è luce per i giusti e tenebra per i peccatori. Ciò avviene nel nome del Signore, che creò una separazione tra la luce e le tenebre, divise gli spiriti degli uomini e rinforzò gli spiriti dei giusti in nome della sua giustizia. Poiché né un angelo né una potenza può fermarlo, perché ha assegnato un solo giudice per tutti loro ed egli li giudica tutti dinanzi a lui. Enoch 42. Poiché la sapienza non trovò nessun luogo dove dimorare, le fu assegnata una dimora nei cieli. Quando la sapienza venne per prendere dimora tra gli uomini, e non poté trovare nessuna dimora, la sapienza ritornò in quel luogo e scelse la sua sede tra gli angeli. Quando l'ingiustizia uscì fuori dai suoi contenitori, trovò quelli che non cercava e si adagiò tra loro, benvenuta come la pioggia nel deserto e come la rugiada in una terra assetata. Enoch 43. Vidi di nuovo folgori e stelle del cielo, e vidi che egli le chiamava tutte con il loro nome, e che esse lo ascoltavano. Vidi come furono pesate con una giusta bilancia in base alla loro luminosità, secondo l'ampiezza delle loro sedi e il giorno di apparizione, e come il loro corso generi folgori. Vidi il loro corso secondo il numero degli angeli e come si mantenessero fedeli le une alle altre. Allora chiesi all'angelo, che mi accompagnava e mi mostrava le cose nascoste: che cosa sono? Egli mi rispose: il Signore degli Spiriti ti ha manifestato il loro significato simbolico. Questi sono i nomi dei santi che abitano sulla terra ferma e mantengono la loro fede nel nome del Signore degli Spiriti. Enoch 44. Io vidi anche altre cose oltre sulle folgori, per esempio come alcune stelle salgano, divengano folgori e non possano più abbandonare la loro nuova forma. Enoch 45. Questa è la seconda parabola su coloro che rinnegano il nome della dimora dei santi e il nome del Signore degli Spiriti. Essi non saliranno in cielo e non resteranno sulla terra. Questo è il destino designato per i peccatori che rinnegarono il nome del Signore degli Spiriti e vengono custoditi per il giorno dell'afflizione e del tormento. In quel giorno il mio eletto siederà sul trono della gloria e compirà una scelta tra le azioni degli uomini e le loro dimore innumerevoli. Il loro spirito si rafforzerà dentro di loro, quando vedranno il mio eletto e coloro che invocano il mio nome glorioso. In quel giorno farò dimorare nel loro mezzo il mio eletto e muterò il cielo e lo renderò eterna luce e benedizione. Muterò la terra, per farne una benedizione e farvi dimorare i miei eletti, ma coloro che avranno agito colpevolmente e malvagiamente non potranno calcarla. Poiché io ho visto i miei giusti e li ho saziati con la salvezza e li ho posti di fronte a me. Ma per i peccatori mi sta dinanzi il giudizio, per eliminarli dalla superficie della terra. Enoch 46. La vidi uno che aveva una testa carica di giorni, e il suo capo era bianco come lana. Presso di lui c'era un altro, il cui volto aveva l'aspetto di un uomo, e il suo volto era piena di grazia, come quello degli angeli santi. Interrogai l'angelo, che mi accompagnava e mi mostrava tutti i segreti, su quel figlio dell'uomo, chi fosse, da dove venisse e perché andasse con la sua testa carica di giorni. Egli mi rispose: questi è il figlio dell'uomo, che ha giustizia, che dimora presso la giustizia e che rivela tutti i tesori di ciò che è nascosto. Poiché il Signore degli Spiriti lo ha scelto, e la sua sorte ha superato tutti in eterno per la giustizia di fronte al Signore degli Spiriti. Questo figlio dell'uomo che hai visto, farà sollevare i re e i potenti dalle loro sedi, e i forti dai loro troni. Scioglierà le redini dei forti e spezzerà i denti dei peccatori. Scaccerà i re dai loro troni e dai loro regni, perché non lo hanno esaltato, lodato, e non gli hanno reso grazie per aver ricevuto il regno. Umilierà il volto dei potenti e li riempirà di vergogna. La loro dimora diverrà una tenebra e i loro luoghi di riposo vermi. Non potranno sperare di sollevarsi dai loro luoghi di riposo poiché non hanno esaltato il nome del Signore degli Spiriti. Essi sono coloro che giudicano le stelle del cielo e levano le loro mani contro l'Altissimo, calpestano la terra e dimorano su di essa. Le loro azioni rivelano ingiustizia. Le loro azioni sono ingiustizia. La loro potenza si sostiene sul loro regno, e la loro fede si rivolge agli dei che si sono fabbricati con le loro mani, mentre hanno rinnegato il nome del Signore degli Spiriti. Essi saranno cacciati dalle case delle adunanze di Lui e di quei credenti che sono conservati presso il nome del Signore degli Spiriti. Enoch 47. In quei giorni salirà di fronte al Signore degli Spiriti la preghiera dei giusti e il sangue dei giusti. In questi giorni i santi che dimorano in alto nei cieli con una sola voce intercederanno, pregheranno, renderanno lode, ringrazieranno e renderanno onore al nome del Signore degli Spiriti a causa del sangue dei giusti e della preghiera dei giusti. Perché non sia inutile dinanzi al Signore degli Spiriti, perché si renda loro giustizia e la loro attesa non duri in eterno. In quei giorni vidi l'Antico seduto sul trono della sua gloria, e i libri dei viventi aperti di fronte a lui, e tutta la sua schiera, che sta in alto nei cieli e intorno a lui, gli stava dinanzi. I cuori dei santi erano pieni di gloria, poiché il numero della giustizia si avvicinava, la preghiera dei giusti veniva esaudita, E il sangue dei giusti trovava vendetta di fronte al Signore degli Spiriti. Enoch 48. In quel luogo vidi una fonte della giustizia, che era inesauribile. Intorno ad essa vi erano molte fonti della sapienza. Tutti gli assetati vi bevevano e venivano riempiti di sapienza, e avevano le loro dimore tra i giusti, i santi e gli eletti. In quel momento quel figlio dell'uomo fu chiamato presso il Signore degli Spiriti e il suo nome fu di fronte all'Antico. Prima che il sole e i segni dello zodiaco fossero creati, e prima che fossero fatte le stelle del cielo, il suo nome fu chiamato di fronte al Signore degli Spiriti. Diverrà per i giusti e i santi un bastone, al quale essi si appoggeranno e non cadranno. Sarà la luce dei popoli e la speranza, per coloro che sono turbati nei propri cuori. Tutti coloro che abitano sulla terra ferma, si prostreranno di fronte a lui, pregheranno e renderanno onore, loderanno e canteranno le lodi del nome del Signore degli Spiriti. A questo scopo egli era stato eletto e nascosto di fronte a Dio, prima che il mondo fosse creato e resterà interno dinanzi a lui. La sapienza del Signore degli Spiriti lo ha rivelato ai santi e ai giusti, perché egli salvaguarda il destino dei giusti, poiché essi hanno odiato e disprezzato questo mondo di ingiustizia e odiato tutte le sue vie e le sue opere in nome del Signore degli Spiriti. Perciò essi saranno salvati in suo nome ed egli è il vendicatore della loro vita. In quei giorni i re della terra e i potenti che posseggono la terra saranno costretti a tenere il capo abbassato a causa delle azioni delle loro mani. Infatti nel giorno della loro angoscia e del loro tormento non salveranno le loro anime. Io li consegnerò nelle mani dei miei eletti. Come paglia nel fuoco e come piombo nell'acqua essi bruceranno davanti alla presenza dei giusti e andranno a fondo al cospetto dei santi, così che non se ne troverà più traccia. Nel giorno del loro tormento vi sarà pace sulla terra. Cadranno di fronte a lui e non si risolleveranno mai più. Non vi sarà nessuno che li prenda con le sue mani e li rimetta in piedi, perché hanno rinnegato il Signore degli Spiriti e il suo unto. Sia lodato il nome del Signore degli Spiriti. Enoch 49. Poiché la sapienza è sgorgata come acqua e la gloria non cesserà mai più di fronte a lui di eternità in eternità. Infatti egli è potente su tutti i segreti della giustizia. E l'ingiustizia passerà come un'ombra e non avrà nessuna durata. Poiché l'eletto sta di fronte al Signore degli Spiriti, e la sua gloria resterà di eternità in eternità, e la sua potenza di generazione in generazione. In lui dimora lo spirito della sapienza e lo spirito di colui che dona intelligenza e lo spirito della dottrina e della forza e lo spirito di coloro che dormono nella giustizia. Giudicherà le cose nascoste e nessuno potrà pronunciare di fronte a lui un discorso vano, poiché egli è l'eletto di fronte al Signore degli Spiriti, secondo la sua volontà. Enoch 50. In quei giorni avrà luogo un cambiamento per i santi e gli eletti, la luce del giorno dimorerà su di loro, e gloria e onore ritorneranno ai santi. Nel giorno del tormento si raccoglieranno le sciagure sui peccatori, e i giusti saranno vittoriosi nel nome del Signore degli Spiriti, ed egli lo mostrerà agli altri, perché facciano penitenza e ne abbandonino le opere delle loro mani. non otterranno nessun onore di fronte al Signore degli Spiriti, tuttavia saranno salvati nel suo nome. E il Signore degli Spiriti avrà misericordia di loro, poiché grande è la sua misericordia. Egli è giusto nel suo giudizio, e di fronte alla sua gloria e nel suo giudizio non ci sarà spazio per l'ingiustizia. Ma chi non farà penitenza di fronte a lui, sarà perduto. D'ora innanzi non avrò più misericordia di loro, così dice il Signore degli Spiriti. Enoch 51. In quei giorni la terra restituirà coloro che sono stati raccolti in essa, e anche lo Sheol restituirà quanto ha ricevuto e gli inferi lasceranno uscire quanto devono. Egli sceglierà tra loro i giusti e i santi, poiché il giorno della loro liberazione è vicino. L'eletto siederà in quel giorno sul mio trono e tutti i segreti della sapienza verranno fuori dai pensieri della sua bocca, poiché il Signore degli Spiriti li ha consegnati a lui e lo ha glorificato. In quei giorni le montagne salteranno come arieti e le colline esulteranno come agnelli sazi di latte. Tutti diverranno angeli in cielo. Il loro volto risplenderà di gioia, poiché in quei giorni l'eletto si sarà levato, la terra gioirà, i giusti dimoreranno su di essa e gli eletti andranno e cammineranno su di essa. Enoch 52. Dopo quei giorni, in quel luogo in cui avevo visto tutte le visioni circa quanto è nascosto, infatti ero stato rapito da un turbine di vento e condotto ad occidente trattino, là i miei occhi videro tutte le cose nascoste del cielo che verranno sulla terra. Una montagna di ferro, una di rame, un d'argento, una d'oro, una di metallo tenero e una di piombo. Allora interrogai l'angelo, che mi accompagnava e mi mostrava tutti i segreti, e dissi: «Che cosa sono queste cose che ho visto in segreto?» Egli mi rispose: «Tutto quello che hai visto serve a dimostrare la sovranità del suo unto, affinché sia forte e potente sulla terra». Quell'angelo della pace mi rispose e disse: «Attendi ancora e tutto ciò che è nascosto e che il Signore degli Spiriti ha piantato, ti sarà rivelato. Quelle montagne che i tuoi occhi hanno visto, la montagna di ferro, quella di rame, quella d'argento, quella d'oro, quella di metallo tenero e quella di piombo, diverranno tutte davanti all'eletto come cera di fronte al fuoco e come l'acqua che scende dall'alto di quelle montagne. Saranno deboli di fronte ai suoi piedi. In quei giorni non si salverà nessuno né con l'oro né con l'argento, e nessuno riuscirà a fuggire. Non sarà dato ferro per la guerra e non ci sarà materiale per la preparazione di una corazza. Il bronzo non sarà utile, né lo stagno servirà o sarà apprezzato, e il piombo non verrà apprezzato. Tutte queste cose saranno annientate ed eliminate dalla faccia della terra, quando l'eletto apparirà di fronte al Signore degli Spiriti». Enoch 53. Là i miei occhi osservarono una profonda valle, con una fossa aperta, e tutti coloro che abitano sulla terra ferma, sul mare o sulle isole vi portavano tributi, doni e segni di omaggio, ma quella valle non ne era mai piena. Essi commettevano delitti con le loro mani e ogni cosa i giusti facessero i peccatori la divoravano colpevolmente. I peccatori verranno eliminati così dal cospetto del Signore degli spiriti e saranno cacciati per tutta l'eternità dalla superficie della sua terra? Ho visto infatti che gli angeli del castigo si trattenevano là e preparavano ogni genere di strumento di tortura per Satana. Allora chiesi all'angelo: per chi preparano quegli strumenti? Egli rispose: sono per i re e i potenti della terra, perché con essi vengano annientati. Poi l'eletto e il giusto farà apparire la casa del suo raduno. Da allora essi non saranno più ostacolati, nel nome del Signore degli Spiriti. Ma queste montagne davanti a lui non saranno solide come la terra, e le colline saranno una fonte d'acqua e i giusti troveranno riposo dall'oppressione dei peccatori. Enoch 54. Osservai e mi voltai verso un'altra parte della terra. Là io vidi una profonda valle con un fuoco ardente. Conducevano i re e i potenti e li gettavano in questa profonda valle. Allora i miei occhi videro che facevano per loro questi strumenti: catene di ferro di peso smisurato. Interrogai l'angelo che mi accompagnava, e dissi: per chi vengono preparati questi strumenti di tortura? Mi rispose: vengono preparati per le schiere di Azazel, per catturarle e gettarle nell'abisso della futura dannazione. Copriranno le loro mascelle con pietre aguzze, come ha comandato il Signore degli Spiriti. Michele, Gabriele, Raffaele e Fanuele in quel grande giorno li prenderanno e li getteranno nella stufa di fuoco ardente, affinché il Signore degli Spiriti si vendichi della loro ingiustizia, per essere sottomessi a Satana e aver sedotto gli abitanti della terra. In quei giorni si leverà la punizione del Signore degli Spiriti e si apriranno tutti i contenitori delle acque, che sono al di sopra del cielo, e inoltre le fonti che sono sotto il cielo e sotto la terra. Tutte le acque si uniranno con le acque che stanno al di sopra del cielo. L'acqua al di sopra del cielo è di genere maschile, e l'acqua sotto la terra è di genere femminile. Tutti gli abitanti della terra ferma che sono sotto i confini del cielo verranno annientati. In tal modo riconosceranno la loro giustizia, con la quale hanno agito sulla terra, e per essa saranno distrutti. Enoch 55. Poi l'antico si pentì e disse: ho distrutto inutilmente tutti gli abitanti della terra ferma. Allora giurò per il suo grande nome: d'ora innanzi non farò più questo agli abitanti della terra ferma, e porrò un segno nel cielo. Sarà per l'eternità un pegno di fede tra me e loro, fino a che il cielo riposerà sulla terra. Poi avverrà per un mio comando, quando lo vorrò, che essi saranno afferrati dalla mano di un angelo nel giorno del tormento e della sofferenza, a seguito della mia ira e della mia condanna. Allora la mia ira e la mia condanna si poserà su di loro, così dice Dio, il Signore degli Spiriti. Voi re potenti, che dimorate sulla terra ferma, vedrete il mio eletto quando siederà sul trono della mia gloria e giudicherà Azazel, tutta la sua compagnia e tutte le sue schiere nel nome del Signore degli Spiriti. Enoch 56. Là io vidi schiere di angeli del castigo che avanzavano e portavano sferze e catene di ferro e di bronzo. Interrogai l'angelo della pace che mi accompagnava, E dissi: Da chi vanno quelli che portano le sforze? Mi rispose: Ognuno va dal suo eletto e amato, affinché vengano gettati nel più profondo abisso della valle. Poi ogni valle si riempirà dei loro eletti e dei loro amati, si compirà il giorno della loro vita, e il giorno della loro seduzione da allora in poi non sarà più calcolato. In quei giorni gli angeli si raduneranno e si volgeranno a oriente verso i parti e i medi, e tormenteranno i loro re, così che uno spirito di turbamento verrà su di loro ed essi saranno cacciati dai loro troni, e usciranno come leoni dalle loro tane e come lupi affamati nel mezzo delle loro greggi. Saliranno e calpesteranno la terra dei suoi eletti, e la terra dei suoi eletti sarà davanti a loro come l'area della trebbiatura e un'orma ben pigiata. Ma la città dei miei giusti sarà un ostacolo per i loro destrieri. Ed essi faranno sorgere tra loro l'assassino, e la loro destra si rivolgerà con forza contro essi stessi. Un uomo non riconoscerà suo fratello, né il figlio riconoscerà suo padre o sua madre, fino a che i cadaveri, per la loro morte, non diverranno innumerevoli, e il loro castigo non sarà vano. In quei giorni lo Sheol spalancherà la sua bocca, lo Sheol farà scomparire i peccatori dal cospetto degli eletti. Enoch 57. Poi vidi di nuovo una schiera di carri, guidati da uomini, e venivano sulle ali del vento da oriente e da occidente verso sud. Si sentiva il rumore dei loro carri, e quando incominciò questo frastuono se ne accorsero gli angeli del cielo e le colonne portanti della terra furono smosse dal loro posto, e per un'intera giornata si udì il rumore da una estremità all'altra della terra. E tutti si prostreranno e pregheranno il Signore degli Spiriti. Questa è la conclusione della seconda parabola. Enoch 58. Allora incominciai a esporre la terza parabola su giusti e sugli eletti. Beati voi giusti ed eletti, poiché magnifica sarà la vostra sorte. I giusti saranno nella luce del sole e gli eletti nella luce della vita eterna. I giorni della loro vita non avranno fine, e i giorni dei santi saranno innumerevoli. Essi cercheranno la luce e troveranno la giustizia presso il Signore degli Spiriti. I giusti avranno pace nel nome del Signore del mondo. Poi ai santi verrà detto che devono cercare nel cielo i segreti della giustizia, la sorte della fede, poiché è diventata luminosa sulla terra ferma come lo splendore del sole, e la tenebra è scomparsa. La luce rimarrà senza interruzioni, e saranno innumerevoli i giorni in cui verranno, poiché la precedente tenebra sarà annientata, e la luce sarà resa forte dinanzi al Signore degli Spiriti, e la luce rilucerà forte per sempre dinanzi al Signore degli Spiriti. Enoch 59. In quei giorni i miei occhi videro i segreti delle folgori e dei luminari e la loro legge. Essi lampeggiano per la benedizione o per la maledizione, come vuole il Signore degli Spiriti. Là io vidi i segreti del tuono e come sotto si senta il suo rombo, quando tuona in alto nel cielo. Mi fecero vedere le dimore della terra ferma e il rombo del tuono, come esso serva alla pace e alla benedizione, oppure alla maledizione dinanzi al Signore degli Spiriti. Poi mi furono mostrati tutti i segreti dei luminari e delle folgori, come lampeggino per la benedizione e per la sazietà della terra. Enoch 60. Nel quattordicesimo giorno del settimo mese del cinquecentesimo anno della vita di Noè. In quella parabola vidi che il cielo del cielo tremava violentemente, e la schiera dell'Altissimo, gli angeli, mille volte mille e diecimila volte diecimila vennero in grande agitazione. L'Antico sedette sul trono della sua gloria, mentre gli angeli e i giusti lo attorniavano. Mi colse un violento tremore. Mi afferrò il timore. I miei fianchi si piegarono e si sciolsero. Tutto il mio essere si squagliò, e io caddi sulla mia faccia. Allora Michele inviò un altro angelo di quelli santi e mi risollevò. Quando mi ebbe risollevato il mio spirito ritornò in me. Infatti io non ero stato in grado di sopportare la vista di quella schiera di angeli, lo scuotimento e il tremore del cielo. Michele allora mi disse: «Quale vista ti ha così sconvolto? Il giorno della sua misericordia è durato fino a oggi, ed egli era misericordioso e generoso verso gli abitanti della terra ferma. Ma quando è giunto il giorno della violenza, della punizione e del giudizio che il Signore degli Spiriti ha preparato per coloro che non si inchinano alla legge della giustizia, rinnegano il giusto giudizio e abusano del suo nome, allora quel giorno è preparato per gli eletti, ma per i peccatori come un giorno di punizione. In quel giorno verranno suddivisi due mostri, uno di genere femminile, di nome Leviatan, perché dimori nel profondo del mare sulle fonti delle acque. Quello di genere maschile si chiama invece Behemoth, e occupa col suo petto uno smisurato deserto di nome Dendain, a oriente del giardino in cui abitano gli eletti e giusti, dove fu accolto il mio avo, il settimo a partire da Adamo, primo uomo che ha creato il Signore degli Spiriti. Io pregai quell'altro angelo di mostrarmi come un giorno si fossero separati e uno era stato collocato nel profondo del mare e l'altro nel deserto della terra. Egli mi disse: «Tu, figlio dell'uomo, vuoi qui conoscere quanto è segreto?» Allora mi parlò l'altro angelo che mi accompagnava e mi mostrava quanto è segreto, l'inizio e la fine, in cielo, in alto, sotto la terra, nel profondo dei confini del cielo, nelle fondamento del cielo e nei contenitori dei venti, e come gli spiriti sono distribuiti, come si pesano e si contano le fonti e i venti, ogni cosa secondo la forza dello spirito, la forza della luce e della luna, e come ciò sia una forza della giustizia, e le divisioni delle stelle secondo i loro nomi e tutte le divisioni che vengono fatte, e i colpi di tuono secondo i luoghi dove cadono e tutte le divisioni che vengono fatte sotto le folgori, affinché lampeggino, e le loro schiere affinché ubbidiscano. Poiché il tuono ha regole fisse per la durata del rimbombo che gli è stata fissata. Tuono e folgore non sono mai divisi. Spinti dallo spirito, si muovono insieme e non si separano. Poiché quando la folgore lampeggia, il tuono fa risuonare la sua voce. Durante il rimbombo, lo spirito dà le proprie disposizioni e divide il tempo in parti uguali tra loro. Poiché la provvista dei loro colpi è ricca come la sabbia, e ognuno di loro mentre colpisce viene trattenuto da una briglia, e cambiano direzione per la forza dello spirito, spinti avanti in relazione al numero dei territori della terra. Lo spirito del mare, maschile e forte, lo trattiene secondo il potere della sua forza con una briglia, E allo stesso modo viene sospinto in avanti e disperso sotto le montagne della terra. Lo spirito della brina è un angelo particolare, e lo spirito della grandine è un buon angelo. Lo spirito della neve egli lo ha licenziato a causa della sua forza, e la neve possiede uno spirito particolare, ciò che ne deriva è come un fumo e si chiama gelo. Lo spirito della nebbia non è con neve, brina e gelo uniti nel loro contenitore, ma ha un suo particolare contenitore. Poiché egli fa il suo ingresso alla mattina presto tra luce e tenebra, in inverno ed estate. Il suo contenitore è la luce, e lo spirito è il suo angelo. Lo spirito della rugiada ha la sua dimora ai confini del cielo, ed è unita ai contenitori della pioggia. La rugiada fa la sua comparsa in inverno e in estate le sue nubi sono strettamente legate a quelle della nebbia. L'una dà forza all'altra. Quando lo spirito della pioggia esce dal suo contenitore, allora giungono gli angeli, aprono il contenitore e lo fanno uscire. Allo stesso modo quando egli viene cosparso sulla terra ferma, e tutte le volte che sulla terra lui si unisce con l'acqua. Poiché le acque sono là per gli abitanti della terra. Poiché l'Altissimo che è in cielo le ha destinate come alimento della terra ferma. Pertanto è data alla pioggia una misura, e gli angeli la prendono in consegna. Tutte queste cose io le vidi sino al giardino dei giusti. Là parlò l'angelo della pace, che era presso di me, e mi disse: questi due mostri sono qui secondo la grandezza di Dio per essere divorati, affinché il tribunale di Dio non sia invano, e i figli vengano uccisi con le loro madri e i bimbi con i loro padri. Quando il castigo del Signore degli spiriti si fermerà su di loro, si fermerà affinché il castigo del Signore degli spiriti non venga invano. In seguito il tribunale si terrà secondo la sua pietà e pazienza. Enoch 61. Io vidi come in quei giorni a quegli angeli furono dati lunghi spaghi ed essi si presero ali, volarono e si diressero verso nord. Io chiesi all'angelo: perché hanno preso quei lunghi spaghi e se ne sono andati via? Rispose: se ne sono andati per misurare. L'angelo che mi accompagnava disse: questi portano per i giusti le misure dei giusti e gli spaghi dei giusti, affinché essi si rifacciano per sempre in eterno al nome del Signore degli Spiriti. Gli eletti inizieranno ad abitare presso gli eletti, e queste sono le misure che vengono date alla fede e che rafforzano la parola della giustizia. Queste misure riveleranno tutti i segreti nel profondo della terra, perché coloro che sono morti nel deserto, o che furono inghiottiti dai pesci del mare o dagli animali, facciano ritorno e confidino nel giorno degli eletti. Nessuno infatti morirà dinanzi al Signore degli Spiriti, e nessuno potrà morire. Tutte le potenze che si trovano su in cielo ricevettero un ordine e una voce e una luce simile al fuoco. Esse lodarono quel Messia a una sola voce, lo esaltarono e lo lodarono con saggezza e si dimostrarono loro stesse sagge nelle parole e nello spirito della vita. Il Signore degli Spiriti avrà posto l'eletto sul trono della sua gloria ed egli giudicherà tutte le opere dei santi su in cielo e misurerà con la bilancia le loro azioni. Quando egli solleverà il suo viso per indirizzare le loro vie segrete secondo la parola del nome del Signore degli Spiriti, allora parleranno tutti con una sola voce, loderanno, esalteranno e renderanno lode al nome del Signore degli Spiriti. Egli chiamerà tutto l'esercito del cielo, tutti i santi nell'alto, tutto l'esercito di Dio, i cherubini, i serafini e gli ofannim, tutti gli angeli della potenza, tutti gli angeli delle signorie, gli eletti e le altre potenze, che sono sulla terra ferma e sopra l'acqua. E in quel giorno esalteranno con una sola voce, loderanno, glorificheranno, renderanno lode ed esalteranno nello spirito della fede, della saggezza, della pazienza, della pietà, del diritto, della libertà e della bontà e tutti parleranno con una sola voce. Lode a Lui, e il nome del Signore degli Spiriti sia lodato per tutta l'eternità. Tutti quelli che su in cielo lo loderanno, e similmente tutti gli eletti che abitano nel giardino della vita, ogni spirito della luce che sia in grado di lodare, rendere onore, glorificare e santificare il tuo onorato nome e tutta la carne che loderà e glorificherà oltre misura il tuo nome in eterno. Poiché grande è la misericordia del Signore degli Spiriti ed egli è generoso. Tutte le sue opere e tutta l'estensione delle sue opere egli l'ha rivelata ai giusti e agli eletti nel nome del Signore degli Spiriti. Enoch 62. Allora il Signore comandò ai re, ai potenti, agli elevati e a coloro che abitano sulla terra e disse: Aprite i vostri occhi e sollevate i vostri corni, se siete in grado di riconoscere l'eletto. Il Signore degli Spiriti lo fa sedere sul trono della sua gloria. Lo spirito della giustizia veniva versato su di lui. Il discorso della sua bocca uccideva tutti i peccatori, e tutti gli ingiusti furono annientati dinanzi al suo cospetto. Tutti i re, i potenti, gli elevati e coloro che posseggono la terra ferma, si levarono in quel giorno per vederlo e conoscere come egli si siede sul trono della sua gloria, e come dinanzi a lui si giudichi giustamente, e davanti a lui nessuna menzogna viene pronunciata. Anche allora verrà su di loro un dolore come quello di una donna per la quale il parto sia difficile, quando il figlio sia sulla bocca dell'utero, e provi dolore nel partorire. Una parte di loro implorerà all'altra, si spaventeranno. Volgeranno il loro sguardo, li afferrerà il dolore, quando vedranno quel figlio dell'uomo sedere sul trono della sua gloria. I re, i potenti e tutti coloro che posseggono la terra glorificheranno, loderanno ed esalteranno colui che domina su tutto, e che era nascosto. Poiché il figlio dell'uomo prima era nascosto e l'Altissimo lo ha conservato dinanzi alla sua potenza e lo ha rivelato agli eletti. La comunità dei santi e degli eletti verrà disseminata e tutti gli eletti in quel giorno staranno dinanzi a lui. Tutti i re, i potenti, gli elevati e coloro che dominano sulla terra ferma. Di fronte a lui cadranno sulla propria faccia e pregheranno, riporranno la loro speranza in quel figlio dell'uomo, lo imploreranno e pregheranno per ottenere la sua misericordia. E il Signore degli Spiriti li costringerà ad allontanarsi rapidamente dalla sua presenza. I loro volti si riempiranno di vergogna e la tenebra si addenserà sui loro volti. Gli angeli del castigo li accoglieranno per vendicare su di loro il fatto che hanno ingiuriato i suoi figli e i suoi eletti. Costituiranno uno spettacolo per i giusti e per i suoi eletti. Essi gioiranno perché l'ira del Signore degli Spiriti si posa su di essi e la sua spada si inebrierà del loro sangue. I giusti e gli eletti saranno salvati in quel giorno, E da allora in poi non vedranno mai più il volto dei peccatori e degli ingiusti. Il Signore degli spiriti dimorerà su di loro ed essi mangeranno insieme a quel figlio dell'uomo, si prostreranno davanti a lui e lo esalteranno per tutta l'eternità. I giusti e gli eletti si eleveranno sulla terra e cesseranno di abbassare il loro sguardo, e verranno rivestiti con abiti di gloria. E questo sarà il vostro abito, un abito di vita presso il Signore degli spiriti. I vostri abiti non invecchieranno, e la vostra gloria non passerà di fronte al Signore degli spiriti. Enoch 63. In quei giorni i potenti e i re, che posseggono la terra, imploreranno i loro angeli del castigo, ai quali sono stati consegnati, perché concedano loro un po' di tregua, affinché possano prostrarsi e pregare il Signore degli spiriti e riconoscere davanti a Lui le loro colpe. Loderanno e onoreranno il Signore degli spiriti e diranno: sia lodato il Signore degli spiriti, il Signore dei re, il Signore dei potenti, il Signore dei sovrani, il Signore della gloria, il Signore della sapienza di fronte al quale ogni segreto è rivelato. La tua potenza dura di generazione in generazione e la tua gloria di eternità in eternità. Profondi e innumerevoli sono i tuoi segreti, e la tua giustizia è incalcolabile. Ora noi abbiamo riconosciuto che dobbiamo glorificare e lodare il Signore dei re e il sovrano di tutti i re. Diranno anche: chi ci ha concesso requie per glorificarlo, ringraziarlo e professare la nostra fede dinanzi alla sua gloria? Ora noi desideriamo un po' di riposo, ma non lo otteniamo, siamo scacciati e non lo raggiungiamo. La luce si è dileguata davanti a noi e la tenebra è la nostra dimora per sempre. Poiché non abbiamo professato la nostra fede davanti a Lui, non abbiamo glorificato il nome del Signore degli spiriti e non abbiamo lodato il Signore per tutte le sue azioni. La nostra speranza si poggiò tutta sullo scettro del nostro regno e sulla nostra gloria. Nel giorno del nostro tormento e turbamento Egli non ci salva e noi non troviamo nessuna tregua per professare la nostra fede nel Signore veritiero in tutte le sue azioni, nei suoi giudizi e nella sua giustizia, nei suoi giudizi che non hanno preferenze per nessuno. Noi passeremo davanti al suo cospetto a causa delle nostre opere, e tutte le nostre colpe saranno calcolate con precisione. Allora essi aggiungeranno: la nostra anima è stata saziata con le ricchezze acquisite con l'ingiustizia, ma ciò non impedisce che noi dobbiamo scendere nelle fiamme delle pene infernali. Poi il loro volto sarà riempito di vergogna e di tenebra di fronte a quel figlio dell'uomo. Verranno cacciati via dal suo cospetto e la spada starà tra di loro di fronte a lui. E il Signore degli spiriti parlò così: questo è il giudizio stabilito dal Signore degli spiriti sui potenti, i re, gli elevati e coloro che posseggono la terra ferma. Enoch 64. Io vidi in segreto, in quel posto, anche altre figure. Ascoltai la voce dell'angelo che diceva: questi sono gli angeli che scesero dal cielo sulla terra, rivelarono ai figli dell'uomo i segreti e li sedussero, inducendoli al peccato. Enoch 65. In quei giorni Noè vide che la terra si era inclinata e che la sua rovina era vicina. Mosse allora di là i suoi passi, camminò fino ai confini della terra e gridò al suo avo Enoch. Per tre volte Noè disse con voce addolorata: «Ascoltami, ascoltami, ascoltami». Egli gli disse: «Dimmi che cosa è successo sulla terra, che è tanto stanca e sconvolta? Che non debba anch'io morire con essa?» E immediatamente ebbe luogo un forte terremoto. Una voce si fece udire dal cielo e io caddi sulla mia faccia. Venne allora il mio avo Enoch, si accostò a me e mi disse: «Perché sei tanto triste e hai gridato verso di me con voce piangente?» Dal cospetto del Signore è sortito un ordine riguardante coloro che abitano sulla terra ferma. Questa sarà la loro fine, perché conoscono tutti i segreti degli angeli e la violenza di Satana, e tutte le potenze segrete e tutta la potenza di coloro che fondono immagini di metallo per tutta la terra. E anche come si estragga l'argento dalla polvere della terra e si ricavi dalla terra il metallo malleabile. Poiché piombo e stagno non si ricavano dalla terra come il primo. C'è una fonte che li genera, e un angelo sta in essa e quest'angelo è eccellente. Allora il mio avo mi prese per mano, mi risollevò e mi disse: «Va. Ho interrogato il Signore degli Spiriti al proposito di questo terremoto. Mi ha detto: a causa della loro ingiustizia è stato decretato questo giudizio definitivo sui peccatori, e non calcolo più i mesi in cui essi hanno ricercato e hanno potuto apprendere che la terra con i suoi abitanti sarebbe stata distrutta. Per essi non è possibile nessuno scampo per l'eternità perché gli angeli hanno insegnato loro i segreti, ed essi saranno giudicati. Ma per quanto ti riguarda, figlio mio, il Signore degli Spiriti sa che tu sei puro e innocente in relazione a questa accusa riguardante i segreti svelati. Egli ha assegnato un'eterna durata al tuo nome tra i santi. Ti conserverà tra gli abitanti della terra ferma, ha stabilito per i tuoi discendenti che dominino nella giustizia destinandoli a una grande gloria. E dal loro seme sorgerà una fonte di innumerevoli giusti e santi per sempre». Enoch 66. Poi Enoch mi mostrò gli angeli del castigo, che sono già preparati a venire e a sciogliere tutte le forze delle acque sotterranee, per portare il giudizio e la distruzione su tutti coloro che abitano e stanno sulla terra ferma. Il Signore degli Spiriti diede agli angeli che uscivano l'ordine di non sollevare le loro mani, ma di attendere, poiché questi angeli erano preposti alla forza delle acque. Allora io mi allontanai dal cospetto di Enoch. Enoch 67. In quei giorni la parola di Dio mi raggiunse e mi disse: «Noè, ecco il tuo comportamento è giunto dinanzi a me, un comportamento senza macchia, un comportamento improntato ad amore e giustizia. Ora gli angeli innalzeranno una costruzione di legno, e quando essi avranno compiuto quel lavoro, io porrò su di esso la mia mano e lo proteggerò. Ne sorgerà un seme di vita, la terra muterà e non resterà senza uomini. Assegnerò un'eterna durata alla tua discendenza di fronte a me, e non coltiverò più il progetto di distruggere coloro che abitano presso di te sulla superficie della terra. La tua discendenza sarà invece benedetta e si moltiplicherà sulla terra nel nome del Signore. Egli rinchiuderà quegli angeli che hanno dimostrato ingiustizia in quella valle ardente che prima il mio avo Enoch mi aveva mostrato, ad occidente presso le montagne d'oro e d'argento, di ferro, di metallo malleabile e di stagno. Vidi quella valle in cui si trovava un grande fluttuare e agitarsi di acque. Quando tutto questo avvenne, da quell'infuocato metallo liquido e dal movimento in cui si agitavano le acque, fu prodotto in quel luogo un odore di zolfo che si unì con quelle acque. La valle degli angeli che avevano sedotto gli uomini continua a bruciare sotto la terra. Attraverso le valli della stessa terra escono fiumi di fuoco, laddove furono giudicati gli angeli che sedussero gli abitanti della terra. Per i re, i potenti, gli elevati e per quelli che abitano sulla terra quelle acque furono poste, in quei giorni, come risanamento del corpo. Furono la punizione dello spirito di coloro che erano pieni di voluttà, perché fossero puniti nel loro corpo. Infatti essi hanno rinnegato il Signore degli spiriti e per quanto vedano ogni giorno il suo giudizio non credono nel nome di Dio e allo stesso modo che il loro corpo brucia, si produce in loro un cambiamento dello spirito, di eternità in eternità. Poiché nessuno può pronunciare un vano discorso di fronte al Signore degli spiriti. Il giudizio infatti giunge su di essi perché hanno creduto nella voluttà della loro carne e hanno rinnegato lo spirito del Signore. Quelle stesse acque subiranno in quei giorni un cambiamento. Poiché quando quegli angeli saranno puniti in quelle acque, cambierà la temperatura di quella fonte d'acqua, e quando gli angeli saliranno, l'acqua della fonte cambierà e si raffredderà. Sentii Michele che si levava e diceva: questo giudizio, col quale vengono giudicati gli angeli, è una testimonianza per i re, i potenti e coloro che posseggono la terra. Quest'acque del giudizio servono per il risanamento del corpo dei re e per il piacere dei loro corpi. Essi però non vogliono riconoscere e credere che queste acque si muteranno e diverranno un terno fuoco ardente. Enoch 68. Allora il mio avo Enoch mi diede in un libro i segni di tutti i misteri e le similitudini che gli erano state date, e le raccolse per me tra le parole del libro delle parabole. In quel giorno Michele rispose a Raffaele, dicendo: la potenza dello spirito si impadronisce di me e mi scuote. Per quanto però riguarda la durezza del giudizio sugli angeli, del giudizio riguardante i segreti traditi. Chi può sopportare tale durezza del giudizio che si è compiuto e resta valido, senza venirne distrutto? E di nuovo Michele si volse e disse a Raffaele: c'è qualcuno il cui cuore non si intenerirebbe per questo e le cui reni non si turberebbero di fronte a questa parola del giudizio che è stata pronunciata contro loro, che così vengono cacciati via? Egli stava di fronte al Signore degli spiriti, e continuò: io però non interverrò in loro favore di fronte agli occhi del Signore, poiché il Signore degli spiriti è adirato con loro, perché si sono comportati come se fossero stati uguali al Signore. Per questo il giudizio finora nascosto ricadrà su di loro per sempre, poiché né un angelo né un uomo ha ricevuto la sua parte, ma solo essi riceveranno il loro giudizio di eternità in eternità. Enoch 69. Dopo questo giudizio li perseguiteranno con terrore e angoscia, poiché hanno mostrato questi segreti agli abitanti della terra. Ecco i nomi di quegli angeli. Questi sono i loro nomi. Il primo di loro è Semjazza, Il secondo Arestigifa, il terzo Armen, il quarto Cacabael, il quinto Turel, il sesto Rumajal, il settimo Danel, l'ottavo Rukael, il non Barkiel, il decimo Azazel, l'undicesimo Armers, il dodicesimo Batarjal, il tredicesimo Basale, il quattordicesimo Ananel, il quindicesimo Turjal, il sedicesimo Simapisied, il diciassettesimo Yetarel, il diciottesimo Tumael, il diciannovesimo Tarel, il ventesimo Rumael, il ventunesimo Isesel. E questi sono i capi dei loro angeli e i nomi dei loro capi ogni 100, ogni 50, ogni 10. Il nome del primo è Yekun. Questi è quello che sedusse tutti i figli degli angeli, li fece scendere sulla terra ferma e li sedusse con le figlie degli uomini. Il secondo si chiama Asbel. Questi comunicò ai figli degli angeli progetti malvagi, facendo sì che essi corrompessero i loro corpi con le figlie degli uomini. Il terzo si chiama Gadriel. È quello che mostrò ai figli degli uomini ogni genere di colpi mortali. Egli inoltre sedusse Eva e mostrò ai figli degli uomini gli strumenti di morte, la corazza, lo scudo, la spada e ogni altro genere di strumenti di morte. Dalla sua mano si sono diffuse le armi tra gli abitanti della terra, da allora sino all'eternità. Il quarto si chiama Penemme. Questi ha mostrato ai figli degli uomini la differenza tra amaro e dolce, e ha loro insegnato i segreti della loro sapienza. Egli ha insegnato a scrivere con la tinta e sulla carta, e con questo mezzo essi hanno molto peccato di eternità in eternità e fino a questo giorno. Infatti gli uomini non sono stati creati per questo, per rafforzare la loro fede con penna e inchiostro. Infatti gli uomini sono stati creati, non diversamente dagli angeli, perché restassero puri e giusti, e la morte, che tutte distrugge, non li avrebbe toccati. Ma per questo loro sapere essi vanno in rovina e per questa forza la morte li distrugge. Il quinto si chiama Kasdeja. Questi ha insegnato ai figli degli uomini tutti i colpi malvagi degli spiriti e dei demoni, i colpi del feto nel grembo materno, per cui esso abortisce, i colpi dell'anima, i colpi del serpente, i colpi che prendono per la calure del mezzogiorno, il figlio del serpente, che si chiama Tabat. Questo è il numero di Kesbe'el che mostrò ai santi come giurare per la testa, quando abitava ancora nella gloria e si chiamava Beka. Questi Kesbe'el, disse a Michele, che lui voleva loro mostrare il nome segreto, perché vedessero quel nome segreto e lo potessero menzionare nel giuramento, affinché coloro che mostravano agli uomini le cose segrete tremassero di fronte a questo nome e giuramento. Questa è la potenza di tale giuramento, poiché è forte e potente. Egli, Dio, consegnò questo giuramento a Caio in mano di Michele. Ecco i segreti di questo giuramento. Con il suo giuramento fu rassodato e appeso il cielo, prima che il mondo fosse creato e per l'eternità. Con esso furono poste le basi della terra sopra le acque, dalla creazione del mondo sino all'eternità. Con quel giuramento fu creato il mare ed egli gli diede la sabbia come fondamento per il tempo dell'ira. Esso non può superarla dal tempo della creazione sino all'eternità. Con quel giuramento sono state consolidate le fondamenta, che restano immobili nel loro luogo di eternità in eternità. Con quel giuramento il Sole e la Luna compiono il loro corso e non escono fuori dalle orbite loro prescritte di eternità in eternità. Con quel giuramento le stelle compiono il loro corso? Egli le chiama per nome, ed esse gli rispondono di eternità in eternità. Anche gli spiriti delle acque, dei venti, e di ogni brezza e i sentieri di tutti i gruppi di spiriti. In esso vengono conservate la voce del tuono e la luce della folgore. In esso vengono conservati i contenitori della grandine e della neve, i contenitori della nebbia e i contenitori della pioggia e delle rugiada. Tutte le cose professano la loro fede e rendono grazie al Signore degli spiriti e lo lodano con tutta la loro forza. Il loro nutrimento consiste nel loro rendere lode. Essi ringraziano, lodano ed esaltano il nome del Signore degli spiriti di eternità in eternità. Questo giuramento è potente su di loro, essi ne sono protetti. Anche i loro sentieri ne sono protetti, e il loro corso non va in rovina. Una grande gioia regnava tra di loro, ed essi benedivano, rendevano lode, onoravano ed esaltavano, poiché era stato loro rivelato il nome di quel figlio dell'uomo. Egli, il figlio dell'uomo, si assise sul trono di gloria, e a lui, al figlio dell'uomo, fu consegnata la somma della giustizia. Ed egli fa scomparire ed elimina dalla superficie della terra i peccatori e coloro che hanno sedotto il mondo. Essi verranno legati con catene e rinchiusi nel luogo della raccolta e dell'annientamento? Tutte le loro opere scompariranno dalla superficie della terra. Ma d'ora innanzi non vi sarà più nulla di corruttibile. Poiché è comparso quel figlio dell'uomo e si è assiso sul trono della sua gloria, e ogni male scomparirà e sarà distrutto di fronte a lui. Ma la parola di quel figlio dell'uomo sarà potente di fronte al Signore degli Spiriti. Questa è la terza parabola di Enoch. Enoch 70. E dopo di ciò, il nome di Enoch fu esaltato durante la sua vita dagli abitanti della terra presso quel figlio dell'uomo e presso il Signore degli Spiriti. Il suo nome fu sollevato sul carro degli Spiriti e tra di loro scomparve agli uomini. Da quel giorno io non vengo più enumerato tra di loro, ed egli mi pose tra due regioni celesti, tra il nord e l'ovest, laddove gli angeli presero le corde per misurare il luogo degli eletti e dei giusti. Là io vidi i patriarchi e i giusti, che abitavano in quel luogo da tempo immemorabile. Enoch 71. Poi il mio spirito fu nascosto e salì in cielo. Io vidi i figli dei santi angeli camminare su fiamme di fuoco. Le loro vesti erano bianche e il loro abito e il loro volto rilucevano come neve. Vidi due fiumi di fuoco, e la luce di ogni fuoco risplendeva come giacinto. Caddi allora sulla mia faccia davanti al Signore degli Spiriti. Ma l'angelo Michele, uno degli arcangeli, mi prese per la mano destra. Mi risollevò e mi introdusse in tutti i segreti della misericordia e della giustizia. Egli mi mostrò tutti i confini del cielo e tutti i contenitori di tutte le stelle e dei luminari dai quali escono per venire di fronte ai santi. Allora lo Spirito rapì Enoch nel cielo dei cieli e io vidi là nel mezzo di quella luce un edificio di pietre di cristallo e tra quelle pietre lingue di fuoco vivente. Il mio spirito vide che un fuoco circondava quella casa, ai suoi quattro lati fiumi pieni di fuoco vivente che circondavano quella casa. Tutti intorno vi erano serafini. cherubini e ofanim. Questi sono coloro che non dormono mai, che custodiscono il trono della sua gloria. Vidi innumerevoli angeli, mille volte mille, diecimila volte diecimila, circondare quella casa. Michele, Gabriele, Raffaele e Faunele, i santi angeli che si trovavano su nel cielo, entravano e uscivano da quella casa. Da quella casa vennero Michele, Gabriele, Raffaele e Faunele, molti innumerevoli angeli santi. E con loro venne l'anziano. Il suo capo era bianco e puro come la neve e la sua veste indescrivibile. Caddi allora sulla mia faccia. Tutto il mio corpo si disciolse, e il mio spirito si mutò. Gridai ad alta voce, con lo spirito della forza, e lo benedissi, l'onorei e l'esaltai. Ma queste lodi, che uscivano dalla mia bocca, erano gradite a quell'anziano. Quell'anziano capo venne da me con Michele, Gabriele, Raffaele e Faunele, innumerevoli angeli mille volte mille, diecimila volte diecimila. Venne da me, mi salutò con la sua voce e mi disse: «Tu sei il figlio dell'uomo, che fu generato per la giustizia. La giustizia dimora su di te e la giustizia dell'anziano capo non ti abbandona». Poi mi disse: egli invoca su di te pace in nome del mondo futuro, poiché di là esce la pace fin dalla creazione del mondo e così avverrà di eternità in eternità. Tutti coloro che cammineranno sui tuoi sentieri, dite che non hai mai abbandonato la giustizia trattino, avranno le loro dimore e la loro eredità presso di te, ed essi non si separeranno mai da te per tutta l'eternità. Così sarà lungo i giorni presso quel figlio dell'uomo e i giusti avranno pace e cammineranno per la sua stessa via nel del Signore degli spiriti di eternità in eternità. Enoch Slavo 22. Vidi il Signore, il suo volto potente e gloriosissimo e terribile. Chi sono io per raccontare l'estensione dell'essenza del Signore, il suo volto potente e assai terribile, il suo coro dai molti occhi e dalle molte voci e il trono grandissimo, fatto senza mani, del Signore o coloro che stanno intorno a Lui, la milizia dei cherubini e dei serafini o l'immutabile e indicibile suo glorioso servizio che non tace? Caddi prono e adorai il Signore. Il Signore mi chiamò con la sua bocca: «Coraggio, Enoch, non temere, alzati e sta davanti al mio volto nei secoli». Michele, il grande arcangelo del Signore, mi rialzò e mi condusse davanti al volto del Signore. Il Signore mise alla prova i suoi servi e disse loro: «Enoch salga per stare davanti al mio volto nei secoli». I gloriosi si inchinarono e dissero: «Salga». Il Signore disse a Michele: «Prendi Enoch e spoglialo delle vesti terrene e ungilo di olio benedetto e rivestilo di vesti di gloria». Michele mi spogliò delle mie vesti e mi unse di olio benedetto. L'aspetto dell'olio era più splendido di una grande luce, il suo unguento era come una rugiada benefica, il suo profumo come di mirra e i suoi raggi come quelli del sole. Guardai me stesso e fui come uno dei gloriosi e non c'era differenza d'aspetto. Il Signore chiamò Verevel, uno dei suoi arcangeli che era abile a scrivere tutte le opere del Signore. Il Signore disse a Verevel: «Prendi dei libri dai depositi e consegna un calamo a Enoch e dettagli i libri 10». Verevel si affrettò e mi portò dei libri screziati di smirnio e mi consegnò un calamo dalla sua mano. Enoch Slavo 23. Mi diceva tutte le opere del cielo e della terra e del mare e i movimenti e le vite di tutti gli elementi e il cambiamento degli anni e i movimenti e le modificazioni dei giorni e i comandamenti e le istruzioni e la dolce voce dei canti e le salite delle nubi e le uscite dei venti e ogni lingua dei canti delle milizie armate. Tutto ciò che conviene imparare. Ve rivelme le spose in 30 giorni e in 30 notti e la sua bocca non tacque di parlare. Io non mi riposai 30 giorni e 30 notti, scrivendo tutti i segni e quando ebbi finito, ve rivelmi disse, siediti, scrivi tutto ciò che ti ho esposto. Mi sedetti il doppio di 30 giorni e 30 notti e scrissi, tutto esattamente composi 360 libri. Enoch Slavo 24. Il Signore mi chiamò e mi mise alla sua sinistra più vicino di Gabriele e io adorai il Signore. Il Signore mi disse, tutto ciò che hai visto, o Enoch, ciò che sta fermo e che si muove che è stato compiuto da me. Io te lo spiegherò prima che tutto ciò fosse all'inizio. Tutto ciò che ho creato dal non essere all'essere e dall'invisibile al visibile. Neppure ai miei angeli ho spiegato il mio segreto, né ho raccontato loro la loro composizione. Hanno conosciuto la mia creazione infinita e inconoscibile e io a te la spiego oggi. Prima che fossero tutte le cose visibili, si aprì la luce e io in mezzo alla luce passavo come uno degli invisibili, come il sole che va dall'oriente all'occidente e dall'occidente all'oriente. Il sole troverà riposo, ma io non trovai riposo, perché tutte le cose erano senza formazione. Avendo meditato di porre un fondamento per fare una creazione visibile. Enoch Slavo 25. Diedi ordine nelle profondità che una delle cose invisibili salisse visibile. Uscì ad Oil, grandissimo assai e lo guardai ed ecco lo che aveva nel ventre il grande secolo. Io gli dissi, liberati, ad Oil, e sia visibile ciò che nasce da te. Egli si liberò e da lui uscì il gran secolo, così portando tutta la creazione che io volevo fare. Vidi che era bene e posi per me un trono e mi sedetti su di esso. Alla luce dissi, tu sali più in alto e solidificati. Sì, il fondamento delle cose dell'alto è al di sopra della luce e non c'è nient'altro. Alzatomi dal mio trono guardai. Enoch Slavo 26. E chiamai una seconda volta nelle profondità e dissi, esca fuori, visibile, una cosa dura dalle cose invisibili. Uscì Arukatz, duro, pesante e molto nero. Vidi che era adatto e gli dissi, tu scendi in basso e solidificati e diventa la fondazione delle cose del basso. Scese e si solidificò e divenne il fondamento delle cose del basso. Non c'è sotto la tenebra nient'altro. Enoch Slavo 27. Avvolto l'etere di luce, l'addensai e l'estesi al di sopra della tenebra. Parte mancante tradotta del spagnolo, Enoch Slavo 27. E ho comandato che fosse preso dalla luce e dalle tenebre, e ho detto, diventa solido e così è stato fatto, e l'ho disperso con la luce. E divenne acqua e l'ho dispersa nell'oscurità sotto la luce. Poi l'ho fatto firmare l'acqua, cioè senza fondo, e ho fatto un fondamento di luce intorno all'acqua e ne ho creato sette cerchi all'interno. E immagino l'acqua come un vetro bagnato e secco, vale a dire il vetro, e la circoncisione delle acque e gli altri elementi. E ho dato a ciascuno la sua strada, e le sette stelle ciascuna nel suo cielo, e che erano così, e ho visto che ciò che era stato creato era buono. E mi sono separato tra la luce e tra le tenebre, cioè, in tutto il centro dell'acqua, qua e là, e ho detto alla luce, che doveva essere il giorno e l'oscurità, che sarebbe stata la notte e c'era anche il pomeriggio e anche l'alba il primo giorno. Enoch Slavo 28. Dalle acque consolidai grandi pietre, alle onde dell'abisso ordinai di seccare sulla terra ferma e chiamai abisso ciò che ricadde. Raccolto il mare in un solo luogo, lo legai con un giogo. Diedi tra la terra e il mare un confine eterno. Non sarà spezzato dalle acque. Fissai il firmamento e lo fondai al di sopra delle acque. Parte mancante tradotta del spagnolo, Enoch e Slavo 28. Poi ho affermato il cerchio celeste e ho reso le acque che si trovano sotto il cielo che si univano insieme, in uno spazio unico e profondo, che il caos si è fatto secco e così è stato fatto. Tra le onde ho creato una roccia grande e dura e dalla roccia ho accumulato la parte secca, e la parte secca ho chiamato terra, e il centro della terra l'ho chiamato abisso. Questo significa l'infinito, e ho raccolto il mare in uno sito e ho legato tutto con un giogo. E dissi al mare, osserva, ti do il limite eterno, e non lo romperesti svincolandolo dalle parti dei tuoi componenti. Stando così le cose, ho reso il firmamento veloce. Questo giorno ho chiamato il primo creato. Enoch Slavo 29. Per tutte le milizie celesti formai dalla grande luce il sole e lo posi nel cielo affinché risplenda sulla terra. Per tutte le milizie celesti formai una natura di fuoco. Il mio occhio guardò verso la pietra dura e molto rude e dal lampo del mio occhio la folgore ricevette una natura acquosa e fuoco nell'acqua e acqua nel fuoco né questa spegne quello né quello secca questa. Per questo la folgore è più penetrante e più brillante dello splendore del sole, e acqua molle è più dura della pietra rude. Il mio occhio. Acqua e fuoco convivono nella folgore che si produsse dallo sguardo di Dio rivolto verso ciò che è duro. Dalle pietre feci scaturire un gran fuoco e dal fuoco creai tutte le milizie incorporee e tutte le milizie delle stelle e i cherubini e i serafini e gli ofanim e tutto questo lo feci scaturire dal fuoco. Parte mancante tradotta del spagnolo. Enoch e Slavo 29. E attraverso tutto l'esercito celeste ho immaginato l'immagine e l'essenza del fuoco, e il mio occhio ha guardato la roccia dura, solida, e dal bagliore dei miei occhi il raggio ha ricevuto il suo naturale prodigio, che sono entrambi fuoco nell'acqua e l'acqua nel fuoco, e nessuno dei due può spostare l'altro. E nessuno dei due può asciugare l'altro. Quindi, il raggio è più luminoso del sole, più morbido dell'acqua e più solido dell'hard rock. E dalla roccia ho tagliato del tutto un grande fuoco, e dal fuoco ho creato gli ordini delle 10 schiere incorporee di angeli, e le loro armi sono infuocate e le loro vesti una fiamma ardente e ho ordinato che ognuno di loro in piedi rimanesse in il tuo ordine qui Satana con i suoi angeli fu lanciato dall'alto. Ed era uno degli ordini degli angeli che, partendo con l'ordine che era sotto il suo comando, concepì un'idea impossibile. Mettere il suo trono più in alto delle nuvole sulla terra in modo che potesse diventare uguale al mio potere. E l'ho buttato dall'alto con i suoi angeli e lui volava continuamente nell'aria, sopra l'abisso. Enoch Slavo 30. Alla terra ordinai di far crescere ogni albero e ogni monte e ogni erba che fa seme e ogni seme seminato. Prima di creare le anime viventi, avevo preparato loro il cibo. Al mare comandai di far nascere i suoi pesci e ogni rettile che striscia sulla terra e ogni uccello che vola. Quando ebbi finito tutto, comandai alla mia sapienza di creare l'uomo. Parte mancante tradotta del spagnolo, Enoch e Slavo 30. Il terzo giorno ho comandato la terra per far crescere alberi e colline grandi e fecondi e semi per la semina, e piantato paradiso, e io circondare e installato come angeli armati, fiammeggiante custodi e quindi ho creato il rinnovo. Poi venne la notte e tornò l'alba del quarto giorno. Il quarto giorno ho ordinato che ci fossero grandi luci nei cerchi celesti. E nei primi e più alti circoli ho messo le stelle, Cruno, la seconda Afrodite, nel terzo Aris, il quinto Zeus, nel sesto Hermes, in settima minore, la luna e guarnire con stelle più piccole. E nel posto più basso il sole per l'illuminazione del giorno e la luna per l'illuminazione della notte. Il sole, che dovrebbe andare in base ad ogni animale in questo caso sono 12, e ho assegnato il corso dei mesi ed i loro nomi e le vite, la loro notorietà e ho rimarcato il modo in cui deve riuscire l'un l'altro. Poi venne la notte e apparve la mattina del quinto giorno. Il quinto giorno ho comandato il mare, che era quello di portare i pesci e gli uccelli piumati di molte varietà, e tutti i tipi di animali a rastrasen sulla terra e coloro che sono a terra a quattro zampe, e quelli si alzano nell'aria, maschio e femmina, e ogni anima che respira lo spirito della vita. E la notte tornò e la mattina tornò, il sesto giorno. Il sesto giorno ordinò la mia saggezza per creare l'uomo dalle sette consistenze. La sua carne dalla terra. Il suo sangue dalla rugiada. I tuoi occhi dalla luce del sole. Le sue ossa, dalla pietra. La tua intelligenza della rapidità di angeli e nuvole. Le sue vene e i suoi capelli dall'erba della terra. La tua anima, il mio respiro e il vento. E ho dato a lui sette nature. L'audizione carne, gli occhi per vedere, l'odore dell'anima, le vene, il tatto, il sangue per il gusto, le ossa per la forza e l'intelligenza rapida. Divertiti e ho concepito un sottile detto da dire. Credo che l'uomo dall'invisibile e dalla natura visibile, sia dalla sua morte sia dalla sua vita e immagine, conosca il linguaggio come una cosa creata. Piccolo nella grandezza e grande ancora nella piccolezza. E metterlo a terra come un secondo angelo, onorevole, grande e glorioso, egli ho nominato come righello per governare sulla terra e ho avuto la mia saggezza, e non c'era nessuno, sulla terra, più grande di tutta la mia creature esistenti. E gli ho dato un nome delle quattro parti componenti, est, ovest, sud e decreto per le quattro stelle speciali, e ho chiamato il suo nome, Adam. E gli ho mostrato i due percorsi, quello di luce e quello dell'oscurità. E io gli dissi: questo è bello, questo è male, Così proverei se lui avesse davvero avuto amore per me o odiassi, e chiarì chi era colui che mi amava della sua razza. Perché avevo visto la sua natura, ma non aveva ancora visto la sua, in questo modo, dato che non riusciva a vedere attraverso se stesso, sapevo che avrebbe peccato di male in peggio. Allora mi sono detto, dopo aver peccato, cosa rimane della morte? E l'ho messo a dormire e si è addormentato. Egli ho preso una costola e l'ho creato una moglie, così che la morte verrà da lui dalla sua stessa moglie. E prendo la tua ultima parola e la chiamo, madre, che significa Eva. Enoch Slavo 31. Capitolo mancante tradotta del spagnolo, Enoch e Slavo 31. Adamo verso la sua vita sulla terra, e ho creato un giardino nell'Eden ad est, in modo che egli osservasse il testamento e mantenesse il comando. Ho fatto aprire i cieli per lui, in modo che potesse vedere gli angeli cantare l'inno alla vittoria e alla luce in ombra. Ed era continuamente in paradiso, e il demone capì che volevo creare un altro mondo, perché Adamo era il Signore in terra, per comandarlo e controllarlo. Il diavolo è lo spirito malvagio dei luoghi inferiori, come un angelo fuggitivo di luce ha creato Sotona dal cielo nel modo in cui il suo nome era Satana, quindi era diverso dagli altri angeli. Ma il suo naturale non ha cambiato il suo intelligenza più la della sua comprensione della ragione e delle cose peccaminose. E capì la sua condanna e il peccato che aveva commesso in precedenza, quindi concepì un'idea contro Adamo, in modo tale che entrò in paradiso e sedusse Eva, ma non toccò Adamo. Quindi ho maledetto l'ignoranza. Ma quello che ho benedetto in precedenza, cioè, non maledico. Perciò non maledico l'uomo, né la terra, né le altre creature, ma dell'uomo il suo frutto cattivo e le sue opere. Enoch Slavo 32. Capitolo mancante tradotta del spagnolo, Enoch e Slavo 32. E io gli dissi, tu sei la terra, e alla terra dove ti prendo, devi tornare, non ti rovinerò ma ti rispedirò nel luogo in cui ti prendo. Poi potrò di nuovo riceverti alla mia seconda venuta. E benedico tutte le mie creature visibili e invisibili. E Adam aveva 5 ore e mezza in paradiso. E benedissi il settimo giorno, che è il sabbat, in cui si riposò da tutte le sue opere. Enoch Slavo 33. Ora Enoch, tutto ciò che ti ho spiegato e tutto ciò che hai visto nei cieli e tutto ciò che hai visto sulla terra e tutto ciò che hai scritto nei libri, tutto questo ho escogitato di crearlo con la mia sapienza. L'ho creato dal fondamento in basso fino a quello in alto e fino alla loro fine. Non c'è consigliere né continuatore, sono io solo eterno, non creato con le mani. Il mio pensiero immutabile è il mio consigliere, la mia parola è atto e i miei occhi contemplano tutto. Se guardo il tutto, allora è stabile. Ma se volgo via il mio volto, allora tutto si distrugge. Presta attenzione, Enoch, e conosci chi ti parla. Prendi i libri che hai scritto, io ti do 6 mele rasui che ti hanno fatto salire da me e scendi sulla terra e spiega ai tuoi figli tutto ciò che ti ho detto e tutto ciò che hai visto dal cielo più basso fino al mio trono. Tutte le milizie sono io che le ho create, non c'è chi si opponga a me o che non si sottometta e tutti si sottomettono alla mia autocrazia e servono il mio unico potere. Consegna loro i libri scritti dalla tua mano ed essi li leggeranno e conosceranno il Creatore di tutte le cose e comprenderanno essi pure che non c'è un altro all'infuori di me. Distribuiranno i libri scritti dalla tua mano ai figli e figli ai figli e da parente a parente e da generazione a generazione. Poiché io ti darò un intercessore, Enoch, il mio arcistratega Michele. Perché lo scritto della tua mano e lo scritto della mano dei tuoi padri, Adamo e Set, non saranno distrutti fino al secolo ultimo, perché io ho comandato ai miei angeli Ariosh e Mariosh, che ho posto sulla terra per custodirla e comandare alle cose temporali, di conservare lo scritto della mano dei tuoi padri affinché non perisca nel diluvio futuro che io farò nella tua stirpe. Enoch Slavo 34. Io conosco la malvagità degli uomini, so che non sopporteranno di prendere il giogo e che non seminano i semi che ho dato loro, ma che hanno rifiutato il mio giogo e che prenderanno un altro giogo, e semineranno semi vuoti, e adoreranno dei vani e rifiuteranno la mia autocrazia, e che tutta la terra sarà gravata di iniquità, e di ingiustizie e di adulterie e di idolatrie. Allora porterò il diluvio sulla terra e la terra stessa sarà distrutta in un grande pantano. Enoch Slavo 35. Lascerò un uomo giusto della tua tribù con tutta la sua casa, che agirà secondo la mia volontà e dal loro seme nascerà un'altra generazione in seguito, numerosa e molto insaziabile. Allora nel corso di questa generazione appariranno i libri scritti dalla mano tua e da quella dei tuoi padri, perché i guardiani della terra li mostreranno agli uomini di fede ed essi li spiegheranno a questa generazione ed essi saranno glorificati in seguito più che prima. Enoch Slavo 36. Ora Enoch, ti do un termine di attesa, 30 giorni da passare nella tua casa per parlare ai tuoi figli da parte mia e ai tuoi familiari. E tutti quelli che conservano il loro cuore, leggano e comprendano che non c'è un altro all'infuori di me. Tra 30 giorni manderò gli angeli da te ed essi ti prenderanno dalla terra e dai tuoi figli, per portarti da me tutto ciò che è secondo la volontà del Signore.